vicino a Borbuto e alla Rasnijes. Ale ty mi dzisiaj pracę to tak o 4 rano miałem taką zewnętrzną pracę, to także mnie tam trochę przewiało i trochę przemarłem, no ale no ten wieczór był taki jakby powiedzmy spokojny. A nie dawał się tak we znaki, no ale co zrobić, no zimno idzie ze swoją gębą. Andiamo. certo, c'era anche Giulio Dollaro. No, credo come... comunque già ce li porta bene gli anni che c'ha, Lo conoscevi? Negativo, non lo conoscevo, però una volta che l'ho visto stamattina e ha toccato un me a... Ho detto a Giulio Dollaro. Mi conosceva da parecchio a me, Giulio. Lo conosco tanti anni. Poi è venuto, ho conosciuto stamattina a Coso, a Salvatore Barra Agricola. Anche lui lo conosco un po'. Conosco quasi tutti, da più o meno. Chi più chi meno. Eravamo io, Claudio, poi c'era Antonello Baracuda, poi c'era Domenico Tardanetto, poi c'era Gigi Vulcano, poi è venuto Giulio, poi è venuto Fabrizio con la macchina nuova che ha preso. Fabrizio, chi è il gatto? Caffa. Vabbè, non è quella che mi aspetta, va bene. Bella la macchina di Fabrizio, la nuova SAP, bella, allora, 2007, 2008, cazzo, guarda, con il cambio automatico, il pomelo, quello che si solleva, capito, le marce, cazzo, un freno, cazzo, che può essere, quanto è messo insieme il freno e la frizione, cazzo, come il pedale, cazzo, quanto era grande. Per forza, un freno, cioè l'accelerato è il freno, cioè il cambio sequenziale, è normale, c'è un pedale largo. E calma, poi c'era il figlio, Violetto di Ucchiriato, di piccolino, e poi gli accenera. E una decina eravamo, ci mancava solo Alessio e Natalino, e avevamo fatto tutta quanta la truppa, e tu, Luca. No, non mi ricordo mai niente, prima mi telefonava, facevo salire, non mi ricordo più niente, io non è, mi aggrego così. Quando capita, è un buio, come ho provato a farti il caffè. Il caffè, ma non è che... No, il caffè l'abbiamo preso io, Gianni, cura, gli altri, non ho invitato niente, l'ho invitato io all'ora. Si dice, cioè... Non c'entra niente, se uno lo prende o meno, ma si dice così, prende un caffè, poi uno si prende un succo di frutta, una birra, un whisky, di E vabbè, no, poi tutto, eravamo in un momento, l'ho pagato anche a lui, no? Però se c'è l'ho pagato anche a te, Luca, non ci sono problemi, non me la metto i tuoi problemi, Luca. Antonello Pomponia. Hai visto di quel pilota che ha morto di Simone Uccelli? Sì, io l'ho visto. È una passante, c'è, in bandiera laterale. Hanno mettendo la passante in bandiera laterale. Hai capito quello che ho detto, Antonio? Il pilota, già l'ho visto. Ho visto quando sono entrato, come è caduto. Mi ha affacciato il casco alla testa, e io avevo detto che condizioni era, senza collo, senza un cazzo, senz'altro. Si è toccato il collo e quindi è morto. Non hai troncato. Migliori capita, strampare, ammazzarsi, poi a quella velocità volevo di più, ovvio. Ah, vada, va, avanti, Luca, ripetetela, che vada a bere un bicchierino di birra. Ma perché non la smetti? Luca, ci deve essere spostato. Dove vuoi che te l'hai la birra, Antonio? Bevendomela. mangiato, ho mangiato proprio fare una pinza. Cosa ha mangiato? Pizza? E io sono andato a farmi la spesa, ho mangiato tutto, dico, mi hai spiato un paio di pizze e non ho mangiato una adesso e poi presto ho comprato, mi sono mangiato 30 euro ieri. Davvero? E allora? 30 euro, me ne sono rimasti solo 50 questa settimana, già mi è bastato, ho comprato tutto, quindi non devo spendere niente. Ma ricordo che mercoledì ti arrivano con l'altra cosa di Simona e state tranquilli. Io vabbè, non è che metto a dormire, no? Se trovo qualcosa che lavoro mi infilo e se la piglia in culo. A proposito del lavoro, portate a regola con il preventivo a colori. Il portato l'hai già pagato pure mia. A parte del lavoro manco fatto ancora perché l'inquilino dell'ultimo piano è partita in Spagna, quindi devo aspettare che torni. E quanto ti ha dato? 50 le ho chiesto e mi ha dato 50. E dunque devi comprare quella roba là, devi comprare. Ho già preso le antenne, sono già qui le antenne. Ho fatto tutto, 109 euro mi sono fatto dare. E 50 sono rimasto. Se ti serve una mano dimmelo Antonello, che lunedì io posso anche venire, non c'è problema. Sì, non lo so quando mi sono passati di sopra, buona roba, vediamo se lunedì, martedì, vediamo. Però c'è, allora nel caso salgo su e non mi costa niente, sono due minuti, salgo su con le due antenne vecchie che ci sono, le piglio di nuovo e li metto di nuovo e basta, finito. Vabbè, non c'è problema, se ti serve una mano lo dici e vanno a darti una mano io. Vabbè, già, se mi serve la mano, se ti chiamo, cioè, già lo sai, non c'è problema per quello. Basta. Via. Io manco tanto, ma quanti di hanno con voi, se ne hai tu? No, non ne ho, Giuseppe. E cosa, per il microfono? Cappa. Poi non è anche uno. Quello che c'ho è il tester, che c'ho quello giallo, il digitale. Perché gliela voglio cambiare, dici che metto partendo. Sì, allora quella della batteria non è che non succhia molto col microfono, le F10. No, non alla macchina, no. Di casa, quello di casa, della Z5. Ah, quello bisogna fargli qualche cosa, qualche modifica. Beh, gira tipo l'alimentatore del coso, di quelle, l'alimentatore di 9 volt, si prende di quegli switching che si usa per i ricevitori satellitari. E arriviamo lì a corrente. Sì, basta che sia 9 volt, continui. Già va bene, gli mettiamo lo schermo lì, quel microfono e vai direttamente con l'alimentatore. Ma le mani c'erano così, capito? Non lavorava nemmeno le mani, c'erano un alimentatorino e alimentava l'MPP5 con l'alimentatore. E io, con quello là, con quello che mi hai dato tu, glielo faccio la modifica, capito? Con ogni coso, con questo qua, quello 12,6 volts, quella roba là, dell'alimentatore. Ho capito, vuoi fare la modifica dell'alimentatore? Glielo faccio con il coso, attaccare il microfono, glielo faccio collegato quella cosa che mi hai dato tu, mi hai prestato tu l'amministratore, capito? Ma quella 12 mi, ma così, boh. Puoi attaccarlo con l'alimentatore al microfono, così ripiamo con tutto, non sarei macchino. Alimentazione, devi dare 9, non 12. Dica, se metti 12 volte, piglia buco. Basta. 12 volte va l'inter che l'M500 che ho io, va direttamente alle 12 volte con l'alimentatore, quello sì che va bene. Ok. Vabbè, dai. Luca, ci sei? Luca, le prendi tra la tua zona d'arte? Via, gamba, gamba. E Luca si deve essere spostato, senz'altro. Siamo quasi in Corea, ma è... già passa, noi ce ne siamo. QLM, QLM ce n'è poco. Zappa. Beh, se non viene il colpo oggi, non ho sentito per niente. Ah no, forse deve essere incazzato perché no, non ha fatto impianto l'antenna. Si accende dalla qualora e cammina a piedi, Antonello. Certo, capito, se devi rendere conto a lui, non ho capito. Cazzo, la ventuccia è così la cosa, mi è venuta subito a capofitto. Ne avete trovato da fare impianti così, una al giorno sarebbe stato bene, mi. Il problema è che si vuole la parità IVA e non ti può più permettere di fare nulla nei condomini. Beh, ma solo quello. Si vuole la parità IVA, ci vuole un amico tu che ti faccia la fattura, allora vai e fai il lavoro. Solo così puoi fare qualcosa in più. Se è proprio un amico, se no se ce l'hai dietro ce l'ha. Perché se dovessi chiedere a uno che cosa, vabbè, gli paghi l'IVA, non succede niente, però c'è anche quello che vuoi comprare, non è compreso. Per dire, fai il 50 di manopera e quello ne vuole il 15 o 20 per farti la fattura. E quindi ce l'hai dietro. Antone, ma c'è una cosa, quel mulinello che c'è in garage il tuo, sì, tuo fratello, se glielo chiedi me lo può dare. Io dici, guarda che serve quel mulinello per Giuseppe, adesso se glielo puoi dare. È una pesca tua. E cappa. Me lo chiedo se non se ne fa nulla, se lo do, non lo so bene, non io cazzo, non ne faccio niente, io mi cavo a pescare pioggia. Chiedo, dici che mi manca il mulinello e se me lo regala pure, me lo prende e vedi un po'. Chiedo se te lo dà, se non se ne fa niente se lo regala, io te lo vai a pensare. Non se ne fa nulla, se te lo regala te lo prende, te lo butti via, tanto quando ce lo lascio a fare in aria, a marcire. A me lo utilizzi tu, quando ne vuoi vai a pescare e peschi. Non sarà una lenza di quelle di lusso, che allo stesso lenze cinesi, quindi più di quel tanto di peso lo puoi sollevare. Sì, vabbè, ma no, non è capito, però mi serve perché mi sei rotto a me, non è lo capito, dunque devo per forza comprarlo un altro dai cinesi e per comprarlo se me lo dà lui, me lo regala, oppure il tuo Antonello. Che campa. Ah beh, stasera glielo chiedo, se te lo dà domani te lo porti via. Campa. Cava cava. Visto che. Con l'ago si muove di quello su. Questa malattia. Antonè. Poi ha. Io che c'hai la mola, quella mola là. Quando incendiamo in campagna tua e ne tagliamo quel del tubo per poter piazzare qua? La mola grande, cioè, ma io non la uso quella, lì mi te la usa Giampiero. Ma c'è in campagna, Giampiero 5 minuti, scendi giù insieme a noi e ti prendi il palo come problema, lo tagli e te lo metti in macchina così sei a posto. Poi se io senti di comprare il tessuto chimico, il tessuto di ciliegia, ne ha fare solo il foro. Ma se vuole, ci vorrebbe un trapano con la punta grossa, ci vorrebbe. Già ce l'ha Mario, ce l'ha per quello, non è problema. Già tiriamo a lui, facciamo il foro e poi ti metti il tessuto chimico e è fatto. In 10 minuti si è pronto a piazzare il palo all'antenna. Abbiamo visto l'altra volta, non va bene quella lì. Ho capito qualcosa che abbiamo pigliato l'altra volta? Ho visto l'altra volta, l'altra mattina, la mola, così no, va bene. La mola piccola dell'altra volta, dell'altro giorno me l'ha prestata quello di fondo, me la posso portare a passeggio una mola così. Me l'ha prestata 5 secondi per tagliare il pezzo d'alluminio, ma è una roba mia quella. Sì, sì. come grande, la gente giù e taglia. Già c'è San Paolo in campagna, intanto devi farlo due litri, non è che devi farlo molto lungo. Vabbè dai. Stanotte, come se entro, oppure domani mattina piglio questa cosa qua e te la porto a casa tua, ok? E ci sentiamo sabato domani mattina verso le 10:30 a casa tua. E vabbè, già sono a casa, non ti preoccupare, caso Pinocchio. Vado a passeggiare al Ghero allora. Grazie, ciao, ci vediamo, ci sentiamo, là. Ciao.